Secondo appuntamento della settimana con Arden Devi, la voce di Marco Gravelli a darvi il benvenuto anche questa sera, immancabile il nostro spazio dedicato al mondo dell'hard rock e dell'heavy metal con il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Ringraziamento come sempre a Simone che ha preparato la tracklist di questa sera che ci permette di partire con una band hard rock canadese che sono i Triumph, che a quanto pare si potranno riunire quest'estate per lo Swedish Rock Festival, visto che la band era sciolta. Però prendiamo in esame la storia del gruppo, che nasce nel 1975 quando venne creato dal cantante e chitarrista Rick Emmett, il bassista tastierista Michael Levin e il batterista Gil Moore. Gli inizi non furono particolarmente esaltanti, infatti sia l'omonimo esordio del 76 che il successivo Rock and Roll Machine erano ben lontani da dargli una certa fama e notorietà. Le cose cominciarono a migliorare con il terzo lavoro, Just Again del 78, che segna l'inizio di una brillante carriera che trova i migliori momenti nei due album Held Forces del 1981 e Never Surrender del 93, che gli valsero un disco d'oro in America e di platino in Canada. Dopo questi due grandi album arriva Thunder 7, che si rivela leggermente inferiore, ma andò bene lo stesso a livello di vendite, tanto da essere certificato disco d'oro. Dal 1986 in poi la band perderà seguito, tanto che anche il cantante chitarrista Rick lascia il gruppo. In ogni caso pubblicano un album nel 1992 che si rivelerà un insuccesso e che riporterà un anno dopo a sciogliersi. Sono comunque seguiti a livello di pubblicazione alcuni best live, l'ultimo uscito nel 2003 si intitola Live at the US Festival. Ricordo che però le voci ci portano alla prossima estate allo Swedish Rock Festival, dove la band potrà ritornare insieme, non so per quante date, non so se è per registrare poi un album in futuro. Iniziamo allora con loro, iniziamo con l'ascolto di Follow Your Heart, il pezzo che chiudeva quest'album dal titolo Thunder 7, Sony Triumph. We'll be right back. Le note di Follow Your Heart in apertura del nostro appuntamento di Arden Devi con i Triumph dall'album Thunder 7. Abbandoniamo i Triumph e andiamo ai Manowar, una delle più importanti band di epic metal insieme a Virgin Steel che vi ho presentato proprio ieri sera. La formazione americana, più precisamente di New York, gode un ottimo seguito anche qua da noi. Gruppo nato nel 1980 dal bassista Joey Di Maio e l'ex chitarrista Ross The Boss, al quale si aggiunge il bravo cantante Eric Adams, grande amico di De Maio. Dopo una breve esperienza come cover band, cominciano a scrivere brani propri e grazie ad un demo del 1981 ottengono un contratto con la Liberty Records, che ne pubblica l'album d'esordio Battle Hymns nel 1982. Il successivo Into Glory Ride del 1983 è considerato uno dei capolavori dell'epic metal in generale e c'era da segnalare l'ingresso del batterista Scott Columbus. Il loro fu un successo graduale, soprattutto con gli album Fighting the World, Kings of Metal. Segue l'abbandono poi del cofondatore Ross The Boss e la pubblicazione degli altri album, dai quali citiamo Triumph of the Steel. La line-up è ormai stabile dal 1995 e l'ultimo album in studio è stato Gods of War, uscito un anno fa. Oggi ascoltiamo Killed with Power dall'album Hail to England, uscito nel 1984. Il titolo è una dedica ai fan inglesi a causa di un tour che dovettero annullare proprio in Inghilterra. La formazione è quella dei Manowar. Spreading fear and pain. Black. Joe Bauer, la band dei Manowar, da Hail to England. Eravamo nel 1984. Ritorniamo ai giorni d'oggi con gli Shaman, uscito a metà novembre come tramite l'etichetta Scarlet Records, il terzo album intitolato Immortal per la band brasiliana degli Shaman, gruppo creato nel 2000 da tre ex membri degli Angra, precisamente dal vocalist André Matos, che ospiteremo per il suo nuovo album verso la fine di questo mese, addirittura in una session acustica, poi il batterista Luis Mariotti e il bassista Riccardo Confessori, che in occasione dell'esordio Ritual ricevette ottime recensioni in tutta Europa. Purtroppo le cose in seguito non sono andate bene, da segnalare che la line-up attuale è molto diversa dall'esordio e il successivo album Reason del 2005, da quel lavoro è rimasto solo il batterista Mariotti. Per il ruolo di cantante è stato scelto Tiago Bianchi. Il pezzo che andiamo a proporvi si intitola Strength, la formazione è quella brasiliana degli Shaman. Il sound degli Shaman con le note di questa Strength dall'album Immortal. Abbandoniamo invece il Brasile e ritorniamo in America con questo gruppo che risale al 1978. Grazie ad un contratto con l'Atlantic Records arrivano all'esordio nel 1981 con l'omonimo album che gli valse date di spalla ai Judas Priest, ai Crocus e ai Chitrig. Sto parlando di un gruppo americano appunto che si chiamava Kix. La notorietà arriva ben 7 anni dopo con il 4° album Blow My Fuse, che arriva al numero 46 in America e gli diede la possibilità di suonare di spalla agli Aerosmith, AC/DC ed anche in Europa e a Malmsteen. Lentamente le cose cominciarono a peggiorare visto il periodo in cui nasceva il grunge e dopo la pubblicazione del loro 6° album Show Business la band si scioglie nel 1996. I Kix ad ogni modo si sono riuniti nel 2004 in occasione di alcuni concerti. Da questo loro album, il più importante della carriera, intitolato appunto Blow My Fuse, andiamo a proporvi il brano She Dropped Me The Bomb. Sono i Kix. Drop Me The Bomb. Su quest'album c'era anche il singolo che è arrivato nella top 10 dei singoli proprio più venduti in America, Don't Close Your Eyes, che era un ballatone. Questa era She Drop Me The Bomb, la formazione è quella dei Kix che abbandoniamo e chiudiamo con lo spazio del passato rimanendo negli States con la band degli Slayer, la famosissima band americana nata nel 1981 con la denominazione di Dragon Slayer. In principio si trattava di una cover band e quando decisero di scrivere brani propri modificarono il loro nome nome in Slayer. Dopo la partecipazione alla compilation Metal Massacre volume 3, registrano un demo, seguito nel 1983 dall'esordio Show No Mercy, lavoro ancora influenzato dalla New Wave British Heavy Metal. Il successivo Hell Awaits dell'85 vede l'evoluzione del sound divenendo più pesante e veloce e riscosse un buon successo. Si arriva al loro capolavoro, Rain in Blood, che gli valse riconoscimenti anche in Europa. Poi altri album importanti come South of Heaven del 1998, Season in the Abyss del 90, che prenderemo in considerazione tra breve. E poi arriviamo al 91 con Divine Intervention, dove c'è la fuoriuscita di Dave Lombardo alla batteria, che viene sostituito dall'ex Forbidden e Testament Paul Bostaff. Dopo un album di cover nel 1998 arriva il sesto album, Diabolus in Musica, che non ebbe un grande successo. Nel 2003 Dave Lombardo rientra in formazione e con lui, tre anni dopo, pubblicano Christ Illusion, che gli è valso anche un Grammy Award come miglior performance metal. Ricordo che gli Slayer suoneranno al Gods of Metal di Bologna come headliner sabato 28 di giugno. Vi dicevo, l'album Season in the Abyss è il lavoro che prendiamo in considerazione questa sera e andiamo a proporre le note di Expendable Youth. Le note di questa ballatone, al martedì ve lo presentiamo sempre una ballad, perché non c'è soltanto velocità, pesantezza, aggressività nel mondo hard rock e metal, ma spesso anche dolcezza. Leverage, il brano in questione, si intitola Learn to Live. Leverage è il nome della band, gruppo di melodic metal finlandese, giunta al secondo album dal titolo Blind Fire. Il primo album è uscito solo in Finlandia, è arrivato al numero 38 nel 2006, si intitolava Tides. Ora, grazie alla Frontiers Record, è stato ripubblicato quell'album, ma soprattutto questo nuovo secondo lavoro, Blind Fire, con 10 brani molto ben prodotti. L'abbiamo già presentato con altre tracce le scorse settimane. La prossima band ci porta ancora una volta in Germania, è uscito il 25 gennaio, quindi poco fa, questo secondo album per una band tedesca nata 6 anni fa. Il suo esordio arriva nel 2005 con l'album Thrash and Roll e Soul Show, pubblicato dalla FM Records, che ha nuovamente pubblicato questo nuovo secondo lavoro, Hell in a Box. Per la masterizzazione è stato nuovamente reclutato Andy Klassen degli Holy Moses, che ha masterizzato il lavoro in Germania. L'album presenta 11 tracce potenti e disponibile anche nella limited edition con il videoclip della title track. Hell in a Box è il pezzo che andiamo ad ascoltare, President Evil. We'll be right back. Sandbox, il motivo dei Resident Evil dalla Germania, brano che dà il titolo all'album stesso, Hell in a Box. Il prossimo gruppo ci permette di andare in Australia e ci tengo molto perché è stata una mia piccola scoperta. Girando in internet ho trovato questa band, ve l'ho proposta con il loro primo singolo. Abbiamo contattato io e Simone direttamente il management del gruppo e dalla lontana Australia, dalla città di Melbourne, è arrivato l'album. Il gruppo si chiama Airborne. Ve li avevo presentati con Too Much Too Young Too Fast, un singolo, tra dicembre e gennaio. È tratto dal loro secondo album dal titolo Running Wild, che è stato pubblicato a giugno del 2007 solo in Australia e in Italia verrà pubblicato la prossima estate. La band, abbiamo detto, arriva da Melbourne, sono quattro elementi, gruppo che presenta un sound molto vicino agli AC/DC, Bon Scott, dell'epoca di Bon Scott, molto primi AC/DC. Vedendo anche i video, se andate sul loro sito ufficiale, sono veramente molto molto simili gli AC/DC. In mancanza di un album nuovo degli AC/DC, questo ve lo consiglio. Alle spalle hanno anche un'autoproduzione, un lavoro che era uscito soltanto in Australia, un album dal titolo Ready to Rock nel 2004, pubblicato per un'etichetta indipendente. Lo scorso febbraio la band è passata alla EMI, che ha pubblicato in giugno solo in Australia Running Wild. Successivamente la Roadrunner Records li ha presi sotto contratto per la pubblicazione in tutto il mondo e, come detto, l'album arriverà in Italia nel periodo estivo. In America è già uscito. La band ha ricevuto anche due nomination agli awards australiani come miglior album rock e come album rivelazione dell'anno. Il pezzo che andiamo ad ascoltare quest'oggi, che è il motivo che apre l'album in questione, l'album si intitola Running Wild, il pezzo è Stand Up for Rock and Roll, scelto anche come tema ufficiale della Royal Rumble 2008 del wrestling. La formazione è quella australiana degli Airborne. We'll be right back. Stand Up for Rock and Roll dall'Australia, cloni degli AC/DC, stile Bon Scott, però con una mega produzione alle spalle, album che verrà pubblicato la prossima estate. Questi sono gli Airborne. Appuntamento immancabile con le Metal News, preparate dal nostro Simone, che ci permette di parlare dei Within Epsilon, melodic death metal band svedese che torneranno il 27 febbraio sul mercato con il nuovo terzo album dal titolo The Cult. Ci saranno 10 canzoni, copertina curata dal chitarrista Sandin dei connazionali Dark Tranquility. Bloodbath, questo è il nome della band di Michael Ackerfield di Opeth, nella quale prenderà nuovamente parte come vocalist per le registrazioni di un nuovo lavoro. La band olandese dei Mercenari, che nel 2006 ha vinto un Danish Metal Award come miglior album, pubblicherà un nuovo album il 31 di marzo dal titolo Architect of Lies. Ci saranno 10 brani in totale, sarà disponibile in limited edition con una bonus track e un bonus DVD con un video live registrato durante due festival. Parliamo invece di un nuovo gruppo messo sotto contratto dalla Frontiers Record che verrà pubblicato il 22 di febbraio. Il gruppo si chiama Work of Art, è l'album d'esordio per questa band svedese composta da tre elementi, dedita ad un ottimo AOR. 12 saranno i brani, presente come special guest il batterista Andreas Olsson dei Divine Fire. E da questo album, che noi abbiamo già, nonostante, ripeto, la data di pubblicazione fissata per il 22 di febbraio, andiamo ad ascoltare il brano che apre l'album, Why Do I Work of Art? Pezzo d'apertura di questo album dei Work of Art che troverete nei negozi a partire dal 22 di febbraio su etichetta Frontiers Records era Why Do I. La prossima band è il progetto di Tobias Sammet degli Ed Guy, quindi stiamo parlando di Avantasia, il terzo capitolo si intitola The Scarecrow, album che settimana dopo settimana vi stiamo piano piano presentando. Ci sono grandi special guest come da tradizione in questi suoi progetti, Bob Catley, Jorn Land, oppure Oliver Hartman, Roy Candy Camelot, Michael Kiske ed Alice Cooper alle voci, alle chitarre c'è Kay Jensen e Henio Richter dei Gamma Ray, Rudolf Schenker degli Scorpion, Sasha Peff che è anche il coproduttore, alla batteria c'è il batterista dei Kiss Eric Singer, quindi grandi special guest. Il pezzo che oggi abbiamo scelto si intitola I Don't Believe in Your Love, dove come special guest abbiamo Rudolf Schenker alla chitarra e Oliver Hartman ex Ed Vance alla voce. No! Evel Hartman alla voce, come special guest Rudolf Schenker alle chitarre in questo brano del progetto Avantage, I Don't Believe in Your Love. La prossima canzone sarà l'ultima per questa sera, ci porta all'undicesimo album in studio uscito lo scorso weekend per la celebre gothic metal band tedesca dei Crematori. L'album si intitola Prey, il pezzo che vi propongo da questa storica band è quello che apre l'album, Where Darkness Falls, sulle cui note già in sottofondo Marco Gravelli si congeda da voi, così come lo sponsor Mariposa Dischi e il nostro autore Simone. Un ringraziamento va a tutti voi che avete seguito l'appuntamento di questa sera, martedì, replica il giovedì. Ci ritroveremo ancora una volta domani dalle 20 alle 21 su Rock FM, sempre con Arden Daily. Ciao e grazie. Darkness falls forever. burning in the heart of the sun. Where I am, my feet don't move, they don't run. But I am yearning to be gone. Whenever this day will dawn, I will have left the ground, touched the skies, just like butterflies. Leave the stars behind, let the sun go blind. I will see the next one from a higher ground. However it will make things turn, I will have left the ground, touch the skies, just like butterflies. Leave the thoughts behind, let the sun come blind. And when all seems clear, I'm freezing in the ray of light. Where I go, my thoughts will shine again. But I am journeying.